ogni qualvolta resto muto sul divano, ogni qualvolta che tu mi hai lasciato solo, con questo avverbio di cui tanto già abusato, e ogni qualvolta rigiro il mio sgabello, vago per casa e me la prendo col destino, che questa vita poi non è che un tiro a segno. Prendi la mira e scopri d'essere il bersaglio, e in quel silenzio che lento piomba giù sulla mia anima, un fiume carsico sei tu, che scava dentro i bui discorsi e non mi importa più. Se ogni qualvolta apro la porta e non sei tu, d'altronde io cammino piano, ogni qualvolta il piede mio si è addormentato, ogni qualvolta che tu mi hai lasciato sveglio, in compagnia della mia ombra appesa al muro, e ogni qualvolta attento la tua torta, con quella rabbia di chi ormai la luna storta, ma non è altro che la fetta di un'arancia. Tu va candito e un marinaio chiuso in plancia, e non c'è guerra, non c'è filosofia, nessuna lacrima che mi sorprenda un po' di più, quanto il suono di un campanello che torni a illudermi, che ogni qualvolta ci sarai, ma che ingiustizia.